Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo di banche e anche di borsa, perché, oddio, adesso il Monte dei Paschi ha un po' recuperato, però perde quasi 6%, 5,75% di calo a 18 centesimi di euro per azione, praticamente mal contata. La capitalizzazione di borsa in questo momento del Monte dei Paschi è di mezzo miliardo, un po' più di mezzo miliardo di euro, quindi più di 500 milioni di euro, nulla sostanzialmente rispetto anche a quelli che potremmo chiamare mezzi propri. Peggio del Monte dei Paschi però in questo momento sta facendo la Popolare di Milano, che si contende con il Monte dei Paschi, poco invidiabile primato del peggior titolo tra quelle maggiore capitalizzazione, meno 5,80%, e anche il Banco Popolare meno 4,30%, Popolare Emilia Romagna meno 4,20%, Unipol meno 3,70 e Ubibanca meno 2,80. Gli altri bancari perdono un po' di meno, Intesa San Paolo il 2,13% e Unicredit solo lo 0,70%. Complessivamente Milano non perde tantissimo, però è l'unica borsa negativa tra quelle europee. Perde lo 0,80%, Parigi guadagna lo 0,20%, Francoforte lo 0,50%, Londra più 0,47%, Dow Jones più 0,40%. Perché sostanzialmente Milano negativa? Beh, l'abbiamo già capito, titoli bancari e anche alcuni titoli non bancari. Mi riferisco a Mediaset meno 2,90 e Saipem, anch'essa meno 2,90%, Leonardo Finmeccanica meno 2,60% e poi Tenaris meno 2,20%. Ma, di positivo c'è ST Microelectronics più 1,60, Prismian più 1%, Luxottica più 0,60. Dicevo, ne parleremo perché faremo il punto sia sulla vicenda Monte dei Paschi. Oggi si è insediato ufficialmente il nuovo ministro delegato Marco Morelli, ha già mandato un messaggio registrato, un video messaggio ai dipendenti in cui sottolinea e poi ha incontrato i sindacati oggi. Tra l'altro sottolinea che l'obiettivo prioritario è chiaramente la patrimonializzazione della banca, che poi si traduce, il rafforzamento patrimoniale, che poi si traduce nell'aumento di capitale. Parleremo anche dei rimborsi bancari. A 3 mesi dalla scadenza solo lo 0,5% degli aventi diritto, e questo di un decreto che appunto è a metà della sua vita, e solo 30 persone su 12.500 hanno riottenuto parte di ciò che gli era stato indebitamente tolto. Lo osserva l'associazione Vittime del Salva Banche, ci riferiamo alla vicenda che riguardava Popolare Etruria, Cari Ferrara, Cari Chieti e Marche, e ne parleremo nel corso del programma, nella seconda ora soprattutto, allargando poi il tema anche a quello che sta succedendo come tensioni alle borse europee e americane. Stasera c'è infatti la riunione del Federal Open Market Committee, cioè la parte direttivo della Federal Reserve, e domani arriverà la decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse, ma arriverà anche quella della Banca Centrale Giapponese. Il tema di fondo è che, secondo quanto scrivono molti operatori, l'incertezza stessa che palesano le banche centrali europee, le banche centrali a livello mondiale, in primo luogo la Federal Reserve e anche la Banca Giapponese, devo dire la BCE ha altri problemi più contingenti. Questa incertezza nel non sapere bene come rialzare i tassi, quanto rialzarli e quando rialzarli, crea maggiore incertezza e aumenta l'incertezza degli operatori. Ripeto, di questo parleremo nella seconda ora del programma. Partiremo invece con elementi di economia internazionale, visto che all'ONU si sta tenendo questa plenaria sulla gestione dei flussi migratori, e visto che spesso abbiamo detto che al di là del gestire l'emergenza occorre anche fare in modo che si sviluppino le economie o dare aiuti in loco. Beh, è interessante sapere che, e si parla molto di Africa chiaramente, oltre che di Siria e di flussi migratori medio orientali all'ONU, è interessante sapere che l'Italia è, quanto a valore degli aiuti, il primo paese al mondo. Quanto al numero di aiuti in Africa, siamo praticamente il numero uno è sono gli Stati Uniti. Di questo parleremo per capire esattamente anche come si dirigono questi aiuti e che cosa si può fare, collegandoci appunto al dibattito in corso all'ONU e quindi che vede anche l'intervento del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, vedo già dei messaggi sul tema. L'Italia, confermo che, stante il rapporto che poi, di cui poi parleremo, è al primo posto come investimenti, non stiamo parlando di aiuti umanitari, voglio essere chiaro su questo, ma siccome spesso si è detto investire anche in quei paesi come investimenti, poi il dato è leggermente distorto perché c'è un investimento importante dell'ENI in Egitto e come numero di investimenti al primo posto sono gli Stati Uniti. Però insomma è anche l'occasione per capire che cosa si sta muovendo verso quel continente. Parliamo e partiamo per le notizie in breve dal petrolio, oggi in calo a $42.80 al barile a New York, meno 1%. Oggi di petrolio ha parlato anche a margine del forum Ambrosetti dedicato all'energia che si è tenuto a Roma, ha parlato anche il numero dell'ENI Claudio Descalzi, il quale ha detto non so se si raggiungerà un accordo, l'accordo tra i paesi produttori che vorrebbero bloccare la produzione, creare un tetto alla produzione in modo da far rialzare leggermente il prezzo. Dicevo, ha detto Descalzi, non so se si raggiungerà un accordo, non mi sto concentrando su questo ma sui costi di struttura con i quali io posso, che mi permettano di lavorare anche con prezzi molto bassi. Il tema della sicurezza è sempre rimasto ad altissimo livello di attenzione, quell'area è un'area sud, è chiaro che noi siamo assolutamente attenti, come sapete tutti i nostri lavoratori sono libici e questo non implica minore attenzione, minore sicurezza, continuiamo a essere attenti. Ci sono e ci saranno, spero non ancora, con gli italiani, una situazione di possibili rapimenti per estorsione. Quindi speriamo che questa vicenda, che è sempre molto, molto allarmante, possa andare a buon fine. Su questa non posso dirvi molto perché anch'io non ne so molto e poi non sono dipendenti ENI, quindi non ho potuto neanche seguire onestamente né le dinamiche e né quello che sta succedendo. Chiaramente l'attenzione è massima e rimarrà massima. E questo era il passaggio in cui Descalzi commenta il rapimento dei due italiani, appunto ricordando che il tema della sicurezza in Libia per l'ENI è sempre rimasto ad altissimi livelli di attenzione, ma come avete sentito nella dichiarazione che ha reso la nostra Chiara Piselli, non sono dipendenti ENI, non sta seguendo direttamente la vicenda. Descalzi oggi ha anche detto che l'ENI non è interessata al progetto, qui tornando sui temi propri del cane a sei zampe, e non ci interessa partecipare alla realizzazione della pipeline, delle condotte per quello che riguarda il Turkish Stream. Anche perché non è un progetto di nostro interesse, aggiunto, era una strategia del 2007, quando però insomma, il gas che segue il prezzo del petrolio viaggiava a livelli stellari, con una strategia del gas differente il mondo del gas è cambiato, concluso Descalzi. Ancora, andiamo sulle notizie di carattere internazionale. C'è una maxi fusione in Cina, decisa praticamente in 448, la fusione del comparto dell'acciaio, che darà vita al secondo maggior gruppo mondiale, con l'obiettivo di gestire l'eccesso produttivo che da anni insomma penalizza anche il settore, principalmente proprio per colpa della sovrapproduzione cinese. Allora, la Baowu Steel, secondo produttore cinese, assorbirà la One Iron Steel Group. Praticamente Baowu Steel, che è al quinto posto tra i produttori d'acciaio, acquisisce One, che è all'undicesimo posto, e diventa il secondo maggior gruppo globale con una capacità produttiva di oltre 60 milioni di tonnellate l'anno. E seguono, diciamo, a stretto giro il gigante indiano europeo, che è il risultato della fusione tra Arcelor e Mittal, l'abbiamo raccontato molte volte, la francese Arcelor e l'indiana Mittal. Ma quanto a fusioni e acquisizioni, oggi c'è un'altra notizia importante che riguarda di nuovo il mondo della farmaceutica, perché Allergan acquisirà Tobira Therapeutics pagando $1,700 milioni. In questo modo accederà al trattamento sperimentale per una cura delle malattie del fegato. Pagherà praticamente le azioni di Tobira $28,35 in contante. E quindi dopo le fusioni della settimana scorsa, mi riferisco a Bayer, Monsanto, su un altro fronte chiaramente, ma insomma, la farmaceutica continua a conoscere processi di aggregazione veramente impetuosi. Spostiamoci all'Italia, perché oggi abbiamo scoperto, tra virgolette, che Roma è in cima alla classifica dei prezzi degli immobili residenziali più esclusivi. Nonostante le difficoltà della capitale, che raccontiamo anche noi, nel centro storico, agganciandoci al tema che abbiamo trattato ieri, l'aumento vertiginoso delle compravendite immobiliari, ma, come ci spiegava ieri Mario Breglia, soprattutto concentrati nei grandi centri urbani, molto meno se non nulla in provincia, nei centri minori, con prezzi comunque fermi se non addirittura in calo come previsione sul 2016. Dicevo, all'interno di questo si è scoperto che Roma continua a essere in cima alla classifica dei prezzi dei immobili residenziali più esclusivi, si compra anche a €20,000 al metro quadro, come ci racconta Alessandro Praterotti, vice direttore del Sole 24 Ore, nei 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, che sono trasmessi sempre anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Il mercato immobiliare non sarà più quello di una volta, ma quanto sembra di crescita ancora ne conosce. Nel campo delle case di lusso, infatti, un po' a sorpresa, Roma è riuscita a battere persino Venezia. La capitale, tanto bistrattata e soprattutto invasa dalla spazzatura e con i suoi problemi di amministrazione e burocrazia, si è in realtà in cima alla classifica dei prezzi degli immobili residenziali più esclusivi. Nel centro storico, secondo un'analisi condotta dalla Engel e Volkers, si compra anche a €20,000 al metro quadrato. Segue Venezia, €15,000, Milano e Verona, che con €13,000 è persino riuscito a superare Firenze, dove gli immobili sul Longarno costano fino a €8,200 a metro quadro. I dati utilizzati per stilare la classifica si basano su residenze immobiliari mediate dalla società internazionale specializzata in immobili, ma in realtà, al di là delle rilevazioni di un singolo istituto, il caro casa, soprattutto nel campo del lusso, sembra aver ricominciato nuovamente a correre, o almeno a correre più veloce dell'economia degli altri. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ancora due, tre notizie in breve. L'andamento delle sofferenze bancarie, quindi crediti non più esigibili. Oggi l'ABI fa notare che le sofferenze nette sono ancora in crescita, 85, il dato di fine luglio, 85 miliardi di euro rispetto agli 83,7 di giugno, e il rapporto sofferenze nette su impieghi totali è quindi è quasi al 5%, al 4,76, in aumento anche rispetto a giugno. Era più alto però il rapporto tra le sofferenze e gli impieghi totali a fine 2015, era il 4,93%, tant'è che poi la Banca d'Italia fa notare come dall'inizio della crisi ad oggi l'ammontare dei crediti deteriorati sia pressoché triplicato, e questo fa capire insomma che cosa è successo al sistema produttivo di questo paese, al di là di errori nella gestione, negli affidamenti di questi soldi, ma nella maggior parte dei casi insomma è la distruzione di parte della capacità produttiva di questo paese ad avere la maggior parte della responsabilità su queste sofferenze. Ma dicevo, sono triplicate dall'inizio della crisi. Adesso la Banca d'Italia fa notare che sono leggermente in calo. perché al netto delle rettifiche parlare di un dato complessivo di 200 miliardi o addirittura di 360 miliardi è formalmente corretto ma economicamente fuorviante. Le cosiddette sofferenze sono poco meno di appunto 90 miliardi, 83,7 miliardi al netto delle rettifiche, ma va anche tenuto conto del fatto che questi prestiti sono assistiti da garanzie sia reali, stimati in 85 miliardi, che sia personali, altri 37 miliardi. Cioè, non tutte le sofferenze sono uguali, c'è chi ha messo o beni personali, immobili e quant'altro, o i beni dell'azienda a garanzie. E poi le ferrovie dello Stato, perché oggi il numero uno, Renato Mazzoncini, ha annunciato che la quotazione delle ferrovie dello Stato verrà annunciata nei dettagli nel piano industriale il prossimo 28 settembre e il piano avrà 5 pilastri con una visione di 10 anni, ma chiaramente non si è spinto oltre Mazzoncini, il quale ha detto però che sulla quotazione delle ferrovie dello Stato c'è un perfetto accordo con il ministro Padoan. E poi l'energia, già vi accennavamo prima, oggi nel corso del forum Ambrosetti sull'energia è intervenuto anche il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, il quale ha sottolineato come rispetto al documento precedente varato dal suo collega ex ministro, in questo senso Corrado Passera, vi sono nuove sfide, nuovi obiettivi e in particolare una nuova strategia sulle fonti rinnovabili che terrà conto delle linee guida europee e che partirà dalla cosiddetta neutralità tecnologica, ma avendo presente che una quota di innovazione andrà sostenuta. Sentiamolo sempre al microfono della nostra Chiara Piselli. Noi stiamo preparando una misura che vedremo se inserire nella stabilità o fare un decreto, che sostanzialmente vara la norma sugli energivori e gasivori. Come sapete, la norma sugli energivori serve ad alleggerire per le aziende che sono intensamente consumatrici di energia l'onere, diciamo così, delle, chiamiamole, rinnovabili. Ed è fondamentale perché è stata sospesa ormai tutto quest'anno, che non viene più erogata, ma è stata sospesa addirittura da più tempo. Abbiamo raggiunto l'accordo con la Commissione Europea, abbiamo una comfort letter, aspettiamo a giorni l'ok ufficiale e poi procederemo. Abbiamo poi due cose molto importanti che sono sostanzialmente sganciate da un provvedimento di legge, che è il capacity market, cioè il disegno del mercato della produzione della capacità in Italia. Infine ho fatto rilevare che nell'ultimo Consiglio dei Ministri abbiamo approvato il decreto sui combustibili alternativi, che dà una grossissima spinta alla possibilità di avere la distribuzione, in particolare metano, gas, nei distributori di benzina, e quindi anche di far diffondere una tecnologia che noi abbiamo anche in misura abbastanza rilevante, già presente, ma che possiamo accelerare molto e che è molto compatibile, anzi è molto importante per la riduzione, per i nostri impegni di decarbonizzazione di emissioni. E sul tema dell'energia, oltre ai temi diciamo della Libia, è intervenuto chiaramente anche l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, sulla sfida energetica, ma soprattutto dell'impatto ambientale, oltre che assicurare l'energia a chi ancora non la riceve. La capacità di dare accesso all'energia a chi c'è adesso e chi ci sarà. Noi sappiamo che fra circa 25 anni, 20 anni ci sarà un aumento della richiesta di energia di circa il 30%. Stiamo consumando ora 14 miliardi di tonnellate di olio equivalente, il mondo. Aumenterà del 30% e già oggi ci sono circa 1 miliardo e 3 di persone che non hanno elettricità nel mondo e 2 miliardi e 7 che usano biomassa, quindi non usano elettricità per scopi domestici. Quindi già adesso la situazione è molto critica. Quindi questa è una sfida che è una sfida di tutti, perché l'energia è un fatto primario, ma anche per lo sviluppo. L'altra sfida è che dobbiamo ridurre le emissioni di CO2, quindi non solo dobbiamo aumentare del 30% l'energia, dobbiamo coprire il 1,3 miliardi e il 2,7 miliardi che non hanno accesso ancora a energia elettrica, e in più dobbiamo ridurre la CO2 per riuscire a mantenere il riscaldamento sotto i 2 gradi. We'll be right back. noi invece parliamo adesso di, del tema di cui si dibatte molto, di tema che è al centro del dibattito dell'ONU in questi giorni, quindi la gestione dei flussi migratori e l'aiuto anche direttamente in loco in quei paesi, che si fa anche investendo non solo con gli aiuti umanitari, quelli sono aiuti emergenziali, poi sul modo in cui l'ONU ne abbia gestiti potremmo fare un'intera puntata e anche di polemiche. Ma poi, insomma, se tu vuoi che si crei lavoro lì, non puoi fare solo aiuti emergenziali, puoi investire l'Africa in alcuni aspetti, a macchia di leopardo, sembra quasi una battuta, visto che parliamo di Africa, però ha conosciuto, ci sono alcuni paesi che hanno tassi di crescita assolutamente interessanti. E intanto il dato di cronaca, perché il numero di rifugiati migranti giunti in Europa, questo non riguarda solo l'Africa, ci mancherebbe, via mare, dall'inizio dell'anno ha superato la soglia dei 300.000, lo ha affermato a Ginevra l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, un dato che è quasi la metà rispetto a quello dei primi 9 mesi del 2015, quando ve ne furono 520.000, ma è superiore ai 216.000 di tutto il 2014. La maggioranza degli arrivi chiaramente si è registrata in Italia e in Grecia. E lo stesso ministro Calenda oggi ha ricordato come, avendo l'Europa una necessità pressante di diversificare anche gli investimenti, il futuro, la rotta per questa diversificazione sia proprio l'Africa. Noi abbiamo necessità, agiamo in un contesto molto complicato geopoliticamente, abbiamo una necessità pressante di diversificazione e noi crediamo che la rotta sia l'Africa. Scusate, peraltro questo si sposa con un più ampio disegno sull'Africa. Voi come sapete l'Italia ha presentato un piano che abbiamo chiamato Migration Compact, che prevedeva proprio questo, il fatto di valorizzare e aiutare nella costruzione di, in particolare, infrastrutture energetiche per l'acqua, i paesi di origine e transito, in cambio di un maggior controllo dei flussi, di una maggiore organizzazione e controllo dei flussi. Su questo l'Europa si è mossa, diciamo, in clamoroso ritardo. Quello che vediamo oggi sulla carta sono alcuni numeri, impegni diretti 3 miliardi, impegni indiretti 44 miliardi, diciamo che il tempo degli impegni è finito, bisogna che ci sia un po' di delivery, perché il problema dell'Africa nelle sue varie declinazioni, anche quella energetica, è un problema che è talmente epocale che avrà bisogno di un periodo di gestione molto lungo e bisogna iniziare e farlo con grandissima determinazione, capendo che è un progetto di scala appunto epocale, non è una contingenza di un anno, 2 anni o 3 mesi. E allora vediamo anche quali sono questi investimenti. Il rapporto è di Ernst Young. Nel 2015 a livello globale è sceso il numero dei progetti di investimento in Africa del 5%, a livello globale, scusatemi, in Africa invece è salito del 7%, più concentrato in Africa meridionale ma anche nell'Africa orientale. Quella più penalizzata è l'Africa centrale, che becca appena 2,3% dei progetti. Gli Stati Uniti sono i primi, 100 nel 2015, la Cina è rimasta ferma a 32 progetti, parlammo anni fa della colonizzazione cinese dell'Africa. L'Italia è prima per valore, 7 miliardi e 400 milioni, però attenzione, qui c'è un singolo progetto dell'ENI, quello famoso del giacimento in Egitto, che poi quella è Africa, diciamo nord, la parte nordafricana, da non confondersi con quella subsahariana. Comunque vale solo quel progetto 6 miliardi, quindi falsa tutto il dato. Gli Stati Uniti con 7 miliardi sono secondi, hanno creato 15.000 posti di lavoro. Comunque i progetti italiani in Africa sono 16, hanno creato 3.800 posti di lavoro. Destinazione preferita il Sudafrica. E siamo in collegamento con l'amministratore legato di Ernst Young Italia, Donato Iacovone. Buonasera innanzitutto. Buonasera a voi tutti. Allora, voi fate consulenza, revisione, fiscalità, tutto, insomma 210.000 dipendenti a livello globale. Parliamo adesso di Africa e poi vorrei capire qualcosa invece anche sulle nostre imprese. Se ne parla spesso e si dice è la frontiera, è la rotta, ma voi cosa avete scoperto analizzando, che rapporto è vostro, la qualità oltre che il numero e il valore di questi investimenti? No, come ha già detto lei, chiaramente è influenzato dal dato dell'ENI. Tuttavia ci sono comunque investimenti in crescita sia sul settore delle costruzioni, che ancora è un settore tradizionale. Quello che noi vediamo è che si stanno affacciando operatori anche nel settore delle telecomunicazioni e in altri settori tipici dell'Italia, dove ci sono, secondo sempre i dati che rileviamo, opportunità in Africa anche per il paese Italia. Quindi questa crescita in cui noi ci inseriamo, indubbiamente influenzata dal dato ENI, è una crescita che è un po' più di settore. Quello che verifichiamo è che di nuovo gli italiani si muovono sempre in maniera solitaria, mai come sistema, però credo che si comincia maggiormente a comprenderne le potenzialità e quindi le opportunità per le imprese italiane, e come mi pare comincia a essere consapevolezza di tutta l'Europa, l'unico modo per risolvere nel tempo questi flussi migratori, forse anche il terrorismo, è di investire di più in questo paese e creare le condizioni di vita e economiche in tutti i paesi dell'Africa. Allora, al di là di alcuni insulti a cui come sempre non rispondo, due precisazioni a chi mi chiede della giornata tragica del sistema bancario italiano: oggi non vi interessa, guardi che si è perso la prima parte del programma, ho annunciato che ne parleremo tra brevissimo e dedicheremo tutta la seconda metà del programma a questo, quindi va bene la critica, ma almeno prima informatevi. La seconda invece più di carattere generale sul ma come non ci sono soldi in Italia? Siamo un paese in recessione, adesso siamo tra i numeri uno. Ho già chiarito che su 7 miliardi e 400 milioni, 6 miliardi sono di pertinenza dell'ENI nel progetto del mega giacimento di gas scoperto al largo delle coste egiziane, a Zohr, che è un investimento enorme. Per cui in realtà i miliardi al netto di questo sarebbero 1 miliardo e 400 milioni. Ma scusatemi, ma se le imprese italiane investono dando lavoro a dipendenti italiani e aumentano i fatturati delle imprese italiane, ma ben vengano anche gli investimenti all'estero, cioè non è che le due cose siano in contraddizione, non ho capito. L'impresa non è che possa investire, se non investe in Africa investe in Italia, sono investimenti diversi. Però Iacone, resti con noi perché su questo la voglio sentire dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Tecnologie e logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Tecnologie e logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Focus Economia. Allora, Iacovone, però vorrei sentirle anche sul punto di vista, in quanto amministratore delegato di Ernst & Young Italia. C'è un contrasto, una contraddizione tra un investimento produttivo, quindi non stiamo parlando di aiuti umanitari in Africa, e invece quello che sono gli investimenti in Italia? Ma non credo che tutte le aziende hanno come missione di ricercare opportunità di business, e quindi le cercano dove sono. Se ci sono maggiori opportunità per tassi di crescita o per mille altre ragioni in Africa, ovviamente investono in Africa. Questo tutte le multinazionali, ma anche le nostre PMI, hanno, quelle che hanno avuto maggiore successo e che oggi continuano a crescere sono quelle che si sono internazionalizzate. Quindi credo che l'Africa sia un luogo dove ci sono opportunità, che poi queste opportunità creano posti di lavoro, creano economia e creano condizioni per cui le persone rimangano lì, è un dato di fatto, ovviamente. Sì, certo, non in un anno. Visto che stava parlando delle nostre imprese, mi scusi, noi abbiamo visto la settimana scorsa un dato non bello, anzi bruttino, forte, sul commercio con l'estero. Calato molto l'import, ma ha calato anche il nostro export. E a segnalare, immagino che non sia un problema tanto delle nostre imprese, ma un rallentamento dell'economia globale. E poi abbiamo visto ieri un dato non bello dell'INPS sull'andamento del mercato del lavoro, nel senso che pur essendo saldo positivo è inferiore, ce l'ha spiegato bene ieri, al 2015 e anche al 2016 sui tempi determinati. La sensazione è, e non è una sensazione, è che tutto il ciclo economico stia rallentando. Speriamo di no, speriamo di sbagliarci e speriamo che i dati prossimi denotino un riavvio delle attività. Lei vede, visto che fate molta consulenza alle imprese, il rischio che le imprese italiane, anche quelle che già si erano posizionate, avevano internazionalizzato, frenino a questo punto? Non dico mettono i remi in barca, ma frenino? O invece l'elemento di debolezza più forte è ancora tutta quella fetta di imprese che non è riuscita, non ha voluto, non ci sta pensando a modificare pelle, quindi a collocarsi nella filiera del valore, come si dice in gergo? Qui c'è un dato assoluto, è che l'incertezza nei mercati, non lo dico io, insomma, lo racconto solo, ovviamente ferma le operazioni. Il primo indicatore che abbiamo noi è che tutte le operazioni di IPO, quindi di quotazione, ma anche di M&A, hanno subito diffusione. Negli ultimi mesi hanno subito un rallentamento. Questo è un dato. Le previsioni danno ripartenza nel 2017, però sono previsioni. Oggi diciamo tutto il sistema delle transazioni e delle quotazioni sta rallentando. Questo è un dato. Dal punto di vista delle imprese, in realtà quello che sta sostenendo gli investimenti è la trasformazione che il digitale impone a quelle imprese che comunque hanno piani di crescita, che sono internazionali, che quindi oggi stanno rinnovando sia la rete, la supply chain, cioè la modalità di produzione, quindi la rete di produzione, e sia ovviamente la parte vendite di go to market per via delle nuove tecnologie che consentono di vendere su multicanali, quindi sul web piuttosto su e-commerce piuttosto che sui canali tradizionali. E quindi questo sta obbligando le aziende a fare degli investimenti. Cioè l'investimento è più che, se ho ben capito, più che altro sulla digitalizzazione delle imprese, visto che domani vi sarà un appuntamento importante sull'industria 4.0 proprio qui a Milano, e ne parleremo a lungo. Quello che voi notate è che gli investimenti che restano sono quelli legati soprattutto alla digitalizzazione, ho capito all'implementazione bene? Delle nuove tecnologie che vanno sotto l'ombrello del digitale. E gli altri investimenti? Gli altri investimenti che si stanno facendo sono sempre sui mercati, cioè quelli che sono in processi di globalizzazione stanno ovviamente allargando la propria rete e continuando a investire. Ecco, Iacomone, prego. Sì. No, no, prego. Quello che vediamo poco invece è il movimento delle PMI, lì volevo arrivare. Di nuovo ha un freno e aspetta, oppure si affida a piattaforme, ad altre piattaforme che possono essere quelle di Amazon e quelle di Alibaba o di altri. Questo è un fenomeno in crescita che nel breve porterà dei risultati e nel medio termine a qualche criticità, perché il problema di vendere su piattaforme Amazon, Alibaba o qualunque esse siano è che non hai più i dati dei tuoi clienti e quindi non hai più la relazione con i tuoi clienti, e questo genera ovviamente delle criticità. Cioè dai in appalto la relazione con i clienti, il database di Amazon, il database di Alibaba sanno tutto di me. Poni, ma tu che sei quello che mi vende il prodotto, di me non sai neanche che esista sostanzialmente. Esattamente in questi termini. Poi è vero che Amazon me li rivende anche le informazioni volendo, ma insomma me li rivende. Però decide Amazon quali mi rivende. Insomma, quindi questo è una criticità di cui noi dobbiamo tener conto, perché noi vendiamo un prodotto, il Made in Italy, dove la relazione, le informazioni provenienti dal cliente sono fondamentali per capire quali sono i bisogni o l'esperienza che quel cliente ha fatto rispetto a quel prodotto. L'esperienza e anche poi le scelte successive, se si posiziona su una fascia più alta del mio prodotto, se invece cerca la fascia più bassa, con quale frequenza. Invece io quando poi do, c'è stata un'operazione molto importante, penso al mondo del vino, su questo la settimana scorsa ho visto l'accordo che si è firmato al Vinitaly con Alibaba, no? C'è stato il giorno del vino italiano, ma insomma tutto bene. Il problema è che se ti affidi solo a loro e sei piccolo, dai a loro tutto quello che si chiama in gergo la profilazione del cliente, per cui tu poi non sai più nulla, poniamo l'esempio del vino, ma non solo, del Made in Italy in generale, di quali siano le scelte e con che intensità. Hai il dato aggregato che, come tutti i dati aggregati, ti dice poco. E per chiudere, Iacovone, che cosa consiglia lei a queste piccole e medie imprese che o hanno frenato o non sono nella catena del valore, che vuol dire che non sono fornitori a monte o a valle, non sono clienti o fornitori di qualcuno che produce valore, quindi anche lo distribuisce in questa catena, e magari tendono a fidarsi solo alle piattaforme Alibaba o Amazon con il rischio nel medio termine che lei citava. Qual è il consiglio che diamo? In un convegno che abbiamo avuto martedì a Villadeste sul settore del retail in Italia è emersa una proposta che credo sia una proposta che molti operatori stanno valutando, insomma c'era anche Banca Intesa che lo valutava in maniera molto positiva, potrebbe essere anche quello di creare una piattaforma che sia Made in Italy e che quindi nel mondo chiunque cerchi un prodotto italiano vada su una piattaforma che è Made in Italy, dove noi possiamo ovviamente gestire ed avere le informazioni da dare poi alle imprese che vanno su questa piattaforma. Questa potrebbe essere un'idea. L'altra è che comunque sia, credo, è una provocazione, lo so, ma per competere nel mondo c'è bisogno di una dimensione che sia più grande di quella che le nostre piccole imprese oggi hanno in Italia. E quindi sì, ma anche aggregando, io non penso che ci può, non lo so nel senso specifico del termine, però dico che in effetti regalare, nessuno vuole, può competere con Alibaba in questo momento, con Amazon in questo momento, no. Però rinunciare a priori l'idea che vi possa essere una piattaforma di vendita online italiana e magari a partecipazione di vari soci italiani, in cui poi chi vi partecipa ottiene anche le informazioni, a mio avviso significa tentare una sfida e non rassegnarsi tra virgolette alla colonizzazione, perché di questo si tratta, poi che sia colonizzazione cinese o americana, di questo stiamo parlando. Dopodiché, che non vuol dire che tu non debba continuare a utilizzare Alibaba e Amazon, perché hanno dimensioni mondiali, ma almeno tentare di avere tu una tua piattaforma ne diventa online. Grazie anche all'amministratore delegato di Ernst & Young Italia, Donato Iacovone. Traffico. Focus Economia. :17:52 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, parliamo adesso della borsa, iniziamo con, così sarà contento l'ascoltatore, la lunga pagina sui mercati e sulle banche. Parliamo di borsa prima di tutto e poi arriviamo al Monte dei Paschi di Siena. Giornata, dicevo, in cui Milano fa eccezione, -1,20% il calo rispetto a Parigi, -0,13%, Francoforte +0,20%, Londra +0,25%, Dow Jones +0,35%, proprio per le banche. E allora, Monte dei Paschi, -6,40%, Pop Milano -5,90%, Banco Popolare -4,5%, Pop Emilia Romagna -4,30%, Unipol -4%, Ubi Banca -3%, Intesa San Paolo -2,70%, Unicredit la migliore -0,90%. Bene, oggi ST Microelectronics +1,40%, Prismian +1,30%, Recordati +0,20%, di Monte dei Paschi e delle incertezze a livello borsistico generale parleremo subito dopo. Prima il commento come sempre sui mercati finanziari. Ciao Condina, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Lasciamo stare il Monte dei Paschi, ma insomma non è che molto meglio abbiano fatto Popolare Emilia Romagna, Popolare Milano e Banco Popolare? No, decisamente, sicuramente le vendite in questa seduta si sono concentrate sulle banche a Milano e poi su quelle banche tra virgolette deboli, cioè un pochino più esposte a delle incertezze nei prossimi mesi. Del Monte dei Paschi parlerete dopo, sicuramente la Banca Popolare di Milano e il Banco Popolare hanno un grosso punto interrogativo che è quello della fusione, ci saranno il 15 ottobre prossimo le assemblee, su tutte e due sono affluite molte vendite, hanno chiuso in forte ribasso, lo stesso dicasi per la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, poi c'è anche il tema di Ubi Banca che perde il 3%, Ubi Banca che sarebbe in corsa per l'acquisizione di uno o di certo. Alcune delle famose Good Bank. Sì, Good Bank. Allora, vabbè, tutto è relativo nella vita. Allora, per quello che riguarda Unicredit, il motivo immagino che si chiami ancora offerte per Pioneer. Unicredit vuole vendere Pioneer, ci sono varie offerte, si è molto parlato di quella delle Poste italiane, confermi Ceo se è solo questo il motivo per cui il titolo perde meno degli altri? Beh sì, diciamo che su Unicredit c'è un bel fermento, il mercato vede che il piano di dismissioni avviato da Mustier procede in modo anche abbastanza spedito, come sappiamo questi processi rischiano anche poi di essere abbastanza lunghi, invece qui sono già arrivate le offerte per appunto per Pioneer e poi ci potrebbe essere in rampa di lancio anche la cessione di Fineco e non è un caso che Fineco oggi abbia chiuso praticamente sulla parità, quindi insomma un piano di risanamento della banca che poi molto probabilmente dovrà passare anche da un grosso aumento di capitale che procede bene, il mercato lo apprezza. Allora, i titoli legati al petrolio, oggi il petrolio rincaro, lo ricordavamo, seguono -1,80% Eni, Saipem -3,20%, Finmeccanica invece -3%, ma pesa la richiesta del PM di, se ho ben visto, 16 a Moretti, in quanto allora numero uno delle ferrovie dello Stato per il disastro di Viareggio, di 16 anni? Non so dirlo, no. Beh, sicuramente è un elemento di incertezza, però poi come sappiamo i procedimenti giudiziari sono molto lunghi, grado, certo. Quindi insomma. Va bene, no, era solo per sapere. Ancora andiamo sui migliori e peggiori della seduta. Per quello che riguarda i migliori in assoluto, il titolo oggi è Meridie più 18,70, Casta Diva più 4,5, KR Energy più 4,4. Peggiore la Doria meno 10, Stefanel meno 9,80, Banca Intermobiliare meno 8 e poi la Cassa del Risparmio di Genova che perde il 6,90%. Di banche, partendo dal Monte dei Paschi, parliamo dopo il GR24. Grazie a Ceo Condina. 349-238-6666 resta il numero per i vostri sms e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Tecnologie Logistiche di Magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Focus Economia. :08 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora continuiamo sul tema, diciamo, finanziario delle borse e delle banche oggi in borsa, partendo dal caso, tanto per cambiare, Monte dei Paschi, che alla fine si è aggiudicato il titolo di peggior titolo, scusate gioco di parole, in borsa, meno 6,40%, 18,72 centesimi. Se ho ben capito, e chiedo conferma a Luca Davi, che sta seguendo per il Sole 24 Ore in queste settimane il Monte dei Paschi. Buonasera Luca. Buonasera a tutti. Siamo a 500 milioni di euro di capitalizzazione, cioè 500 milioni di euro. Siamo a 500 milioni di euro e siamo a un decimo dell'aumento di capitale che la banca dovrà fare teoricamente su richiesta della BCE. Sostanzialmente gli investitori nei prossimi mesi dovrebbero mettere 10 volte tanto quello che vale la banca. Ecco, ricordiamo che se poi però guardiamo i mezzi propri, come si chiamano, certo, in gergo, della banca, certo, la banca non vale 500 milioni di euro, solo, diciamo, gli immobili e il resto. Vale meno di un quinto, diciamo, in borsa di quello che ha davvero come valore. 2 miliardi e mezzo circa di quello che vale davvero nei libri contabili. Questo però probabilmente agli investitori interessa forse poco o niente. Il problema che è quello, il problema vero agli occhi degli investitori internazionali, è che la banca ha una serie di criticità che probabilmente nei prossimi mesi dovranno essere sciolte dal nuovo amministratore delegato Marco Morelli, che proprio oggi si è insediato. Mm-hmm. E proprio oggi, questo pomeriggio, ha incontrato i sindacati segnalando proprio come urgenze la ricapitalizzazione, questo è ovvio, e il varo di un piano industriale che però slitterà. Oggi abbiamo dato notizie, insomma ci sarà qualche settimana che necessariamente lui dovrà prendersi per rivedere un po', diciamo, le linee guida di questo piano. Allora, sa che chi conosce questo programma sa che, insomma, non è un programma da educande e da mezzi termini. Ha ancora un senso parlare di una ricapitalizzazione del Monte dei Paschi? Cioè, andare contro, una volta si diceva, andare contro il mercato sbagli sempre, perché andare contro il flusso ti fai del male. Ora, noi abbiamo una banca che continua a essere bastonata. È uscito Viola, è uscito il presidente Tononi, non è cambiato nulla. Anzi, siamo tornati a 18 centesimi di euro per azione. Per carità, oggi vanno male anche le altre, però io mi chiedo, come fai a continuare a raccontare che c'è bisogno di un aumento di capitale da 5 miliardi se vorrebbe dire chiedere fuori sul mercato 10 volte il valore che la borsa ti attribuisce? È un po' paradossale, indubbiamente. No, nel senso che non vorrei che fosse la foglia di fico per continuare a dire, vabbè, noi continuiamo ad andare avanti con l'aumento di capitale, ma diciamoci le cose come stanno, no? Come nei rapporti affettivi, non ti continuare a dire che siamo ancora assieme se tutto è finito, il rapporto è cambiato, allora... Qua si può ancora pensare onestamente che si possa fare un aumento di capitale con tutto il mercato contro? Chiedo. Questa è una grande sfida, è sicuramente una domanda grande più sfida. È sicuramente uno dei problemi che Morelli dovrà iniziare a gestire. Lui ha sicuramente una rete di contatti nel mondo dell'investment banking. Vabbè. E quindi dovrà mettere insieme una serie di reti. Sicuramente dovrà trovare una soluzione. Ma diciamo anche quali sono le alternative. La BCE da tempo dice sostanzialmente che MPS si deve fondere. Investitori disposti a fondersi al momento non se ne trovano, non c'è l'alternativa a questo, diciamo, che è quella di trovare del capitale. Il capitale non è facile, diciamo che sostanzialmente è un cane che si morde un po' la coda. L'effetto finale lo troviamo sicuramente sul mercato tutti i giorni, perché basta uno nulla perché poi, come dire, gli investitori buttino, diciamo, via i titoli. È un titolo che comunque rimane molto liquido. Oggi in più hanno aggiunto due dettagli. Il primo è che uno dei membri sostanzialmente del board della vigilanza BCE, Angeloni, ha avvertito che a fine anno, probabilmente inizio l'anno prossimo, ci potrebbero essere delle correzioni per alcune banche, le più rischiose, dei cosiddetti livelli SREP, diciamo che è un acronimo un po' quindi esotico, ma sostanzialmente i livelli di capitalizzazione, di patrimonializzazione minima. Questo ovviamente ha fatto, come dire, insospettire alcuni investitori. Si è pensato che alcune banche, in particolare MPS, che è sempre nel mirino, debbano quindi aumentare quindi il capitale ulteriormente rispetto a già quello che più o meno si sa, e questo ovviamente ha sollecitato ulteriori vendite. E l'altro tema, di questo secondo me si dovrà anche un po' ragionare in prospettiva, è che sempre più gli investitori temono di dover convertire i bond subordinati, soprattutto quelli in mano agli istituzionali, in equity, cioè in azioni. Oggi il bond subordinato a scadenza 2020 ha raggiunto un tasso del 19%. Capirai. Vuol dire sostanzialmente che investitori, quota circa 65-66 punti, sostanzialmente investitori danno per scontato una conversione dei bond istituzionali. Ecco, questo spieghiamolo un attimo, perché la strada più normale sarebbe l'aumento di capitale. Peccato che il Monte dei Paschi si sia già bruciati tutti, quelli precedenti, è andato anche sotto, 8 miliardi in tutto. E quindi si dice, se, come a mio avviso è probabilissimo, ma non ci capisco nulla, quindi la mia informazione, la mia opinione non vale nulla, l'aumento di capitale sarà impossibile a questi livelli di capitalizzazione di borsa, un'opzione potrebbe essere fare un aumento di capitale più basso, 2 miliardi e mezzo se non ricordo male l'ipotesi, e chiedere, trovare gli altri soldi come convertendo le obbligazioni. Assolutamente, subordinate però, in azioni. Assolutamente, questa è la soluzione principale. E quindi crolla il livello delle obbligazioni. Il valore delle obbligazioni, perché si deve convertire al valore ipotetico delle azioni, che ovviamente a cui si guarda sostanzialmente. Allora, io nel ringraziare per averci raggiunto il collegamento da Londra anche Alberto Gallo, che è gestore responsabile delle strategie globali di Algebris. Buonasera Gallo. Buonasera. Di cui abbiamo sempre apprezzato la chiarezza. Poi arriviamo al timore dei mercati o l'incertezza che regna sui mercati, che alcuni attribuiscono all'incertezza con cui si stanno muovendo le banche centrali mondiali. Però sul Monte dei Paschi non stiamo raggiungendo l'accanimento terapeutico? Beh, da un certo punto di vista il capitale che è stato richiesto è un po' un ammontare molto alto, cioè 5 miliardi di euro, potrebbe anche essere di meno. Ci sono dei modi per aggiustare la banca in modo più semplice, non serve soltanto aumentare il capitale nel mercato azionario, si potrebbero anche convertire delle obbligazioni istituzionali, non quelle al pubblico. Ci sono molti investitori istituzionali, quindi fondi che hanno le obbligazioni, hanno preso un rendimento del 6, 7, 8% e effettivamente non applicare delle perdite, una conversione da debito in capitale vorrebbe dire semplicemente prendere alcuni dei rendimenti indietro, alcuni dei rendimenti che questi fondi hanno fatto, e tutti conoscono il rischio di queste obbligazioni. E poi comunque bisogna risolvere il problema della redditività, che è il problema principale. Quindi se l'aumento di capitale non basta, se poi non si risolve quello. Allora, io chiarisco a tutti che insomma questo aumento di capitale non l'ha deciso Monte dei Paschi, è una richiesta che arriva dalla Banca Centrale Europea, ancora precedente all'esito degli stress test, già ce l'aveva fatto sapere con quella famosa lettera, a mio avviso improvvida, non essere distribuita poi a tutti, però insomma questa è una richiesta che arriva dalla banca di sorveglianza, che è la Banca Centrale Europea. Esistono altre alternative, Luca Davi, a questo? Esistono, nella misura in cui il mercato inizia a percepire come meno rischioso l'investimento su una banca che è sicuramente in difficoltà, e in generale quando iniziano a percepire come meno rischioso l'intero settore delle banche italiane, e questo è correlato ovviamente all'andamento anche dell'economia e di conseguenza anche al recupero dei crediti in sofferenza. La BCE, ricordiamolo, ha chiesto uno smaltimento delle sofferenze, parliamo di 27 miliardi, certo. 9 miliardi di sofferenze nette, ha chiesto che queste sofferenze quindi venissero cedute e ci fosse anche una copertura su queste sofferenze in pancia, che rimarranno in pancia a MPS, sostanzialmente allineandole al livello delle altre banche, diciamo, sane. Questo ovviamente richiede uno sforzo gigantesco per Siena, e ovviamente è qua che si gioca un po' la partita. È giusto chiedere a una banca che è moribonda di tornare, diciamo, in equilibrio? Beh, se noi ipotizziamo che questa cosa possa permettere un po' a tutto il sistema di migliorare, sì. Non è da escludere, e questa è una delle ipotesi che circola, che un po' tutto il sistema poi debba essere coinvolto in un eventuale. Stavo arrivando alla domanda per Gallo, perché Gallo, molti suoi colleghi in queste settimane ci hanno raccontato, anche personalmente, che quando vanno all'estero, mi riferisco a gestori di grandi fondi di private equity piuttosto che manager bancari, se arriva all'Italia, l'Italia, le banche, il Monte dei Paschi. Quanto pesa la vicenda Monte dei Paschi sull'immagine complessiva del sistema bancario italiano? Purtroppo dal punto di vista dell'investitore estero molto. Bisogna evitare soluzioni mutualistiche in cui le banche sane devono pagare per quelle non sane. Questa è la ricetta che la Banca Italia ha adottato negli ultimi 20 anni e ci ha portato proprio a questo problema. Il problema è che le banche sane ora non hanno più né la volontà né la capacità di aiutare le banche deboli. Se si continua a intrecciare il sistema non se ne esce mai più. E quindi abbiamo le banche sane che pagano per quelle deboli, le banche sane che non ce la fanno e poi non prestano alle aziende, le aziende che vanno in default. Quindi bisogna assolutamente spezzare questo meccanismo di intreccio, di circolo vizioso, evitare soluzioni mutualistiche in cui le poche banche, diciamo, forti, grandi, devono pagare per quelle piccole che hanno dato prestiti a dei debitori. Certo, ci sarebbe un'altra soluzione, quella statale, diciamo. Però lì mi rendo conto che ci sia un problema con Bruxelles, a meno che Deutsche Bank, ma questo, diciamo, siamo al mondo fantabancario, su cui vi interrogerò dopo il traffico, a meno che la vicina Deutsche Bank non obblighi la Germania a intervenire come paese e questo apra uno spiraglio anche per il Monte dei Paschi, perché va bene tutto, e va bene la fattoria degli animali di Orwell, e va bene che alcuni animali sono più uguali degli altri come la Germania, però diciamo, sarebbe difficile sostenere questa posizione, cioè che tu aiuti con aiuti di Stato Deutsche Bank e non lo possiamo fare noi con il Monte dei Paschi. A chi sta per obiettare, vuole usare i nostri soldi per il Monte dei Paschi? No, voglio capire qual è la soluzione migliore per evitare che tutto il mondo bancario, come spiegava adesso Gallo, italiano, sia penalizzato dal Monte dei Paschi, che se il mercato sente aria di un aiuto mutualistico, che vuol dire semplicemente che tutte le banche si mettono assieme per fare l'aumento di capitale Monte dei Paschi, penalizza tutte le banche, anche quelle sane, e fare in modo che il mercato distingua tra banche con estrema difficoltà come Monte dei Paschi e banche che invece hanno ottimi parametri, chiamiamoli così, non voglio entrare sui core tier 1, core tier 2, ma insomma, hanno degli ottimi parametri a livello di altre banche europee e non meritano di essere penalizzate solo perché italiane e solo perché in Italia c'è il Monte dei Paschi. Questo è il ragionamento, in modo che possano tornare a prestare soldi anche agli imprenditori. Dopo il traffico, la risposta 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. :22 di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Allora, Alberto Gallo e poi voglio sentire anche Luca Davi. Ma l'ipotesi che, visto l'aumento di capitale, secondo me non si riuscirà a fare in quei termini. L'alternativa è convertire, ho capito, le obbligazioni subordinate in azioni. Ma resta poi un tema di fondo. Del piano Passera nessuno di voi due mi ha parlato, non ho capito se sia ancora sul tappeto, sullo sfondo o più che il piano Passera, il piano Passerà. Non lo so ancora, però Gallo... Se Deutsche Bank dovesse avere tutti questi problemi, ieri abbiamo visto dichiarazioni molto allarmate anche dalla Germania, è veramente fantabanca pensare che se interviene lo Stato tedesco allora si possa aprire anche un passaggio per il Monte dei Paschi? No, ci sono 3 sistemi bancari in Europa che non hanno fatto sufficiente ristrutturazione. Uno è l'Italia, lo sappiamo, poi c'è la Germania e anche il Portogallo. La Germania ha tante banche inefficienti, Deutsche Bank è la banca più grande tra le più grandi d'Europa, si è sviluppata soprattutto grazie al trading, però con capitale abbastanza limitato, può essere ricapitalizzata, si può fondere oppure avrà bisogno di qualche aiuto, ma in quel caso io penso che aumentare capitale o fondersi con altre banche sia sufficiente. Il punto è che bisogna valutare, prima di mettere capitale pubblico, bisogna valutare se il sistema bancario o la banca in cui lo si mette farà dei profitti. E quindi per far questo bisogna migliorare la redditività di una banca. Cioè, nel momento in cui le banche americane sono state ricapitalizzate dal Tesoro, sono anche state ristrutturate, certo. È lo stesso per la Spagna. Quindi se si mette soldi pubblici nel Monte Paschi o in altre banche, bisogna anche ristrutturarle e soprattutto preferibilmente ristrutturarle prima di fare l'iniezione di capitale, altrimenti poi le perdite continuano. E servono altri soldi. Questo abbiamo già visto, questo film, in effetti. Quindi secondo me il punto principale è la mancanza di redditività delle banche, che sono state effettivamente mischiate. Quando c'era una banca debole negli ultimi 10 anni, la banca debole... Scusi, ma voi avete la sensazione che adesso la banca, lo Stato ha una quota perché ha convertito il prestito in azioni al 4%. Sì. Tra l'altro su questo vedo anche dei messaggi che dicono ho le obbligazioni subordinate 2018 del Monte Paschi, oggi sono scese a 60, sì, secondo voi le convertono in azioni? Sì, ne abbiamo appena parlato, è proprio questo il tema, che c'è un'ipotesi. Se è retail, teoricamente no, se è istituzionale. Se è istituzionale, non so, non scrive se è retail. Però è una delle ipotesi. Però volevo dire una cosa, infatti mi dice retail, no, allora se è retail no, parlavamo degli istituzionali. Però una cosa la voglio dire, quanto è forte la variabile politica? Perché la sensazione è anche che il governo, che pure è una parte del Monte dei Paschi, lo Stato, stia aspettando, diciamo, dal post referendum, è uscito su tutti i giornali, e quindi che il guadagnare tempo non sia dovuto a un risanamento interno alla banca, ma a un motivo politico, che sarebbe da questo punto di vista del tutto improprio. Gallo? Ma in realtà questo problema persiste da molto tempo. Quindi è stato creato in decenni, il governo l'ha ereditato da decadi di governance poco inefficiente, sia da parte della banca stessa che da parte del regulator, inclusa Banca Italia. Quindi si sa che la banca non era efficiente. Poi con la crisi i nodi sono venuti al pettine, ma sicuramente i problemi sono anche dovuti alla banca stessa, non solo alla crisi. Ci sono banche che non reggono. Mussari e Baldassari qualcosa insegnano nella gestione. Quindi, il punto è che ora bisogna risolvere la situazione, perché non si può più chiudere un occhio, forse anche due, come faceva la Banca Italia, perché adesso il regulator è la BCE. Quindi adesso la BCE è molto più intransigente, giustamente, e ci sono dei limiti di tempo più stretti. Quindi il governo si trova in una situazione difficile. Io penso che comunque la variabile principale sia creare una banca che fa dei profitti. Purtroppo non esiste una soluzione a costo zero, perché ci sono troppi sportelli. L'Italia è ancora il paese con più sportelli che ristoranti per persona, con più sportelli di tutto l'Ocse, quindi tutti i paesi sviluppati. E quindi bisogna avere meno banche, meno sportelli. Alla fine qualcuno ci va a perdere, però poi ci vanno a guadagnare le imprese, gli imprenditori e chi verrà assunto negli anni futuri. Allora, stessa domanda anche per Luca Davio, ho 2 minuti scarsi, e cioè, da un lato, se Deutsche Bank o il risanamento di alcune banche grossissime in Europa potrebbe aprire uno spazio anche per il Monte dei Paschi, dall'altro, se obiettivamente tutto questo prende tempo sia dovuto a motivi politici, molti ascoltatori mi scrivono: ma facciamola fallire e basta. Sì, buonanotte. Beh, forse farla fallire, diciamo che vuol dire, creerebbe un problema di instabilità generale sul mercato. No, dico buonanotte, forse così facile. Ma il tema politico invece è nevralgico, indubbiamente lo è, sì, in Italia, perché lo sappiamo, il referendum diventerà sostanzialmente, che in Germania, certo. Ma soprattutto in Germania, perché lì, diciamo che, come dire, l'incertezza in prospettiva è forte, e soprattutto si ribalta poi sull'organo della vigilanza bancaria della BCE, dove l'anima franco-tedesca formata dalla presidente francese Nui e la vicepresidente Leutenschläger tedesca, bene, questo asse indubbiamente ha un peso poi nelle decisioni, nelle pressioni, contano anche in Europa. Nelle pressioni, poi, come nelle richieste anche di tipo tecnico, è inutile girare attorno al tema. Sicuramente c'è una rilevanza in questo senso, e un'origine anche probabilmente delle scelte, una direzione quantomeno. Bene, a questo punto, quindi, alla tua domanda specifica, Deutsche Bank può essere un tema in prospettiva? Sì, lo sarà sicuramente, se diventerà poi davvero rilevante per loro un eventuale intervento pubblico. A quel punto probabilmente potrebbe esserci un ammorbidimento generalizzato, magari in prospettiva. Questo però lo dovremo vedere fra qualche tempo. Su MPS in sé, probabilmente la richiesta di abbassare lievemente proprio l'ammontare di capitale, rivederlo nel perimetro, magari potrebbe essere anche una soluzione senza, come dire, chiamare in causa soggetti esterni, magari anche di tipo puramente di mercato come soluzione. Lo dovremo vedere sicuramente nelle prossime settimane, non appena anche inizieremo a vedere magari più praticamente cosa dice questo piano industriale e le risposte degli investitori. che oggi comunque non sono state buone e infatti ha perso il 6,40%. Grazie Luca Davi, grazie Alberto Gallo in collegamento con noi da Londra. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.